Yeah, non sto senza, non mi passa. No, no, no, no, no, no, sto solo, ma in coppia all'ansia. Oh, oh, oh, scazzo un bro che sta con Bianca. No, non voglio la sua scomparsa. Yeah, voglio giorni solo casa. Oh, oh, oh, pure solo sentirla lontana. Lontana da me, ho dei bro che stanno pronti a far notata. No, te con me, no, te, sa te. Un, due, tre, dico un, due, tre. Non vedo più te, ho fatto come con le ex. Vabbè comunque, vabbè comunque. Non mi importa se sono stato troppo bad. Sono stato troppo bad, sono stato troppo bad. Chi in media sera sta sempre tipo sad. Questi non vogliono te, bla bla dentro caffè. Dai che tanto lui rimanda a scuola, ehi. Gang, gang, gang, gang, gang. Un po' di tanto ma non sto capendo che sono queste scuse, chiudo le fessure. Ma perché sempre me, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Sono fatto per restare ok. Ma a volte sembra di no, anche sul perché. Sto senza, non mi passa. No, no, no, no, no, no. Sto solo, ma in coppia all'ansia. Oh, oh, oh, scazzo un bro che sta con Bianca. No, non voglio la sua scomparsa. Yeah, voglio giorni solo casa. Oh, oh, oh, pure solo sentirla lontana. Lontana da me, ho dei bro che stanno pronti a far notata. No, te con me, no, te, sa te. Baby, l'ansia è una droga. È lo spazio in cui vivo quando è tutto finito. È su un'istanza da solo. Dalle fogne là fuori non puoi stare nel mezzo. Non puoi lasciare perdere. Immagino se questo è il senso della vita. Spegnere le luci e vedere cosa brilla. Baby hai le chiavi, fammi girare. Supponiamo che potessimo fermare il tempo. Supponiamo che per noi ci sia un piano più grande. I desideri si avverassero appena pensati. Immagino che sia questo il senso della vita. Immagino che sia presto per dirlo ma ah, amore mi fai, cosa mi fai, ma fammi male, hai fame di me. Ah, amore mi fai, cosa mi fai, ma fammi male, hai fame di me. Yeah, non sto senza, non mi passa. No, no, no, no, no, no, sto solo, ma in coppia all'ansia. Oh, oh, oh, scazzo un bro che sta con Bianca. No, non voglio la sua scomparsa. Yeah, voglio giorni solo casa. Oh, oh, oh, pure solo sentirla lontana. Lontana da me, ho dei bro che stanno pronti a far notata.